nostre giornate. Iniziamo questa nuova puntata. Siamo arrivati finalmente a venerdì. Un venerdì abbastanza pieno di tante cose. Abbiamo ospiti in questo momento, è arrivato anche il nostro amico Marco. Aspettiamo Lucone, è un ospite a sorpresa che sveleremo appunto più tardi. Tema della puntata: amicizia e fratellanza, perché nella vita reale c'è bisogno di amicizia e fratellanza. Poi ovviamente esistono anche gli amici virtuali o anche gli amici immaginari, parleremo anche di questo appunto. E salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del Brancaleone, i colleghi e le colleghe di Idea Prisma Radio Grad, che ci ritrasmette tutti i mercoledì, e come sempre Gemini Network, che sostiene e supporta questo progetto di Jolly Roger. Partiamo con il primo pezzo per noi e poi iniziamo a bomba la puntata. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal, didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Primo pezzo per noi, puntata ricca di chiacchiere, insomma. Salutiamo anche la nostra amica e collega Olena, che è qui presente per la prima volta, perché ne ha sentito sempre parlare di Jolly Roger, quindi finalmente come prima volta è venuta e sentirà con le sue orecchie, come si dice a Roma. Allora Ciccio, oggi parliamo di amicizia e fratellanza. Tu con chi sei venuto? Chi è venuto a trovarci oggi? Che appunto lo dicevamo prima, esistono tanti tipi di amicizie, l'amico di una vita, l'amico da viaggio, l'amico immaginario, l'amico virtuale, quindi cioè, di amici ce ne abbiamo. Quindi io ti passo il microfono, dimmi tu chi hai portato e in quale veste lo hai portato. Io Io portarò mio amico Marco, classe mia, scuola mia, liceo Orazio. Io vedo l'orato Marco. Sì, è vero, Marco ormai sta diventando un ospite fisso che a noi fa solo che piacere, insomma, quindi vuol dire che ci si diverte, quindi. E, senti, parlando appunto di amicizie, quanti amici hai? Io so che tu ne hai tanti. Io tiro Marco Matteo Bonacina, Jacopo, Davide, io e Marco E faccio. questi sono i tuoi amici di scuola. Sì. Poi ci stanno gli amici fuori scuola, chi sono? Luca? Esatto, beh, cioè, dico guardate intorno un attimo. E Pietro. Ok, e Chiara e Alice non sono più diventate amiche tue? Sì, Ah, Chiara e Alice. perfetto, no, perché diciamo anche che Jolly Roger è anche un gruppo di amici, oltre che un gruppo divertente che fa radio, insomma, quindi noi prima di tutto siamo amici, poi. Ovviamente, ma più che amici ormai si è instaurato quello che si dice anche rapporto di fratellanza, quando uno ormai negli anni, nel bene e nel male, si vede con determinate persone. Quindi quelli sono, si instaurano rapporti di fratellanza che sicuramente, cioè, sono molto più sani di alcuni tipi di rapporti familiari che purtroppo i rapporti familiari sono costrittivi. Detto questo, Ciccio. Che canzone? Questa è la prima canzone che ha portato. Gli ho detto: ma come mai ti sei impazzito questa settimana che hai portato sta canzone? Allora, ha detto: no, ecco, è grazie a Marco. Quindi ringraziamo Marco che qualche cosa lo sta influenzando in bene. Lo vedo un po' più come sempre, un po' più laziale, però è un laziale rocchettaro e quindi ci facciamo piacere un po' di più. Allora, andiamo col secondo pezzo e poi ritorniamo in diretta. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Stay. want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parla appunto di amicizia e fratellanza, una sottile linea che appunto fa parte di qualsiasi persona che sta, che me guardi Ciccio, no. mi sono interrotto, era un momento di serietà ma con questi occhioni qua. Allora Ciccio, che vuoi dire? Vai, io ti passo il microfono. Io non dire ora per la persona, ma mamma Maria, no, per la persona, Maria, mamma va a lavoro un attudio, a tu bello, Pietro. No. Sì, aspetta, diciamolo a tutti, quello che hai detto a me appena sei sceso, che tu lunedì e venerdì sei in... In ferie, perché io... Ecco, avete capito tutto, sta in ferie. Io lunedì non vado al PCO, non vado a scuola, perché da me c'è la tablea, esatto. La mattina... Perché non ci vai? Perché a casa, Ciaone, a casa Ciaone, giustamente. Senti Ciccio, questo meteo, questo aprile è pazzo più di marzo, quindi che dobbiamo fare? Come sarà questo weekend il tempo? Sabato, parte Pietro, domenica, non piove, la pomeriggio, umido e la mattina non piove Pietro. Quindi che famo? Stiamo a casa tutto il weekend? Certo! Certo, con la play, con la copertina sul divano, a vedere la partita. Esatto, senti, facciamo pure pronostici o andiamo con una canzone? Una canzone. Noi andiamo con una canzone. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my must have damn near killed you. And this is how you remind me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Jolly Roger, si parla di amicizia, fratellanza, appunto, qui a Jolly Roger il gruppo, prima di essere un gruppo, è composto di amici che sono diventati anche quasi fratelli, perché comunque gli anni passano, ci si invecchia e qualcuno invece cresce, quindi è il bello della vita. Ciccio, abbiamo parlato del tuo amico Marco, che ormai diventerà presto anche lui uno speaker di Jolly Roger. Abbiamo parlato del meteo. Che cosa manca a questo weekend idilliaco? Che vuol dire? Vai. Vai. Io dico, cari guetti, pite la Juve. Poi? Sarete una piadina, pite la piadina, poi un altro, io moderata, pitmonda, no. Altre due? No, no, no, lo dico. Dille, dai, dai, due. Allora, c'è Empoli, Napoli. Io Empoli, Napoli, l'Empoli. Vince l'Empoli. Poi, l'ultima? Mia rete, vince Milan. Vabbè, come ha vinto ieri sera, però non lo ricordiamo ai milanisti. Marco. Allora, Marco, visto che sei qui davanti a me e ti ha chiamato in causa anche il tuo amico Matteo, raccontaci, cioè, a parte da quanto ti conosci questo bell'uomo, e soprattutto cosa pensi tu dell'amicizia e della fratellanza. Vai! Allora, io Matteo oramai sono 4 anni che conosco questo qui presente, appunto, Matteo, e no, vabbè, l'amicizia penso sia veramente tra le basi della vita, cioè, nel senso, perché comunque sono quelle relazioni, appunto, che proprio, appunto, nella vita ti segnano, insomma. Cioè, sono proprio essenziali, cioè sono una sorta di linfa vitale, cioè, insomma, è importante avere rapporti, è appunto importante, insomma, avere relazioni, un confronto con più persone, ecco, quindi questo è quello che penso, insomma, l'amicizia e fratellanza sono fondamentali. Ok, grazie Marco, noi passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Ragazzi, cioè, Marco, tanto di cappello, chapeau, come si dice, come dicono quelli bravi. E andiamo con un pezzo che ha portato lui, o meglio, ma ha spacciato, come ha detto, guarda che mi ha detto Marco di metterlo, io lo mettiamo. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta, e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sta una pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene, la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, dai, dai. Ah, è la cumbia della noia. mente nelle cose, vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate. Torniamo in diretta, nel frattempo è arrivato la nostra, il nostro amico Lucone, bello come il sole, diciamolo, e poi è arrivata anche la nostra amica Carlotta, lei più bella di Lucone, mo, diciamolo anche questo, sono questione di gusti, ma diciamolo. Allora, e Matteo ha detto, è andato a salutare la sua amica, perché si parla di amicizia e fratellanza, quindi... Allora, passo il mic al mio amico Luchino, dopo le perle di saggezza e chapeau ancora a Marco. Ora vediamo se anche tu ti meriti qualche chapeau. Ciao a tutti, allora, buonasera a tutti, sono Luca e io come gli amici qua alla radio ho Matteo, Marco, mi fa un vero piacere, Carlotta, Lucone che è sempre al top con i suoi grandissimi saluti. Poi a scuola c'ho il mio compagno Nicolò, che lo chiamo Cocco, anzi Rocco. Ci divertiamo, facciamo tante cose. Poi saluto anche il mio professore Alicino. Insomma, cioè, poi non voglio bene soltanto loro, ma voglio bene anche gli amici di mio fratello, che per me sono quasi come grossi fratelloni e cugini. Tipo, io ai gemelli un sacco di bene, tipo ad Alessio e Daniele ci vado molto d'accordo perché sono fanciulli. E vado ogni tanto sempre altro al bar, al ristorante. Mi fa un sacco, cioè, ogni volta. Ma tu hai più amici, amici tuoi, nel senso che vedi anche al di fuori di scuola, oppure hai, come appunto Marco è l'esempio, amici di classe, compagni di classe, e soprattutto, vincolo di fratellanza con chi? Fratellanza, oddio, fratellanza con Giorgia, te, Chiara, insomma anche con l'amico di mio fratello Spaghettino del Natale, Danielino che lavora al Mauris, tutti andiamo a trovare, è Spaghettino, perché è tanto buono, caruccio, non fuma, tanto caruccio, sì, è il più silenzioso, e vabbè, quindi adesso vorrei un grande abbraccio qua tra Giorgia, Olena e Chiara, perché voglio un mondo di bene, per favore venite qua. Perfetto Luchino, anche per te chapeau, meritati. Un pezzo e poi ritorniamo in diretta qui Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Questo era un pezzo dei Queen che ha portato il nostro amico Luchino, che anche quest'oggi ci ha colpito con effetti speciali. Mancano le nostre ascoltatrici, si strappano i capelli per aspettare questa rubrica, quella dei consigli degli acquisti, dove noi diciamo che in tutto ciò non piamo una lira, ma manco mezza caramella. Quindi, Luchi, la prossima volta vediamo se riusciamo a fare qualcosa di serio. Dai, ti passo il mic e andiamo con le offerte. Offerte Euro Spin: gamberi argentini 300 grammi a 3,50 euro al chilo. Blu Scola 0 e classica a 99 centesimi. Plum cake con gocce di cioccolato a 99 centesimi. Euro Spin, la spesa intelligente. Raga, pure la sigla, manco nelle migliori trasmissioni FM hanno la sigla. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta, però ovviamente con un cambio mic con la nostra amica Aliciotta. Perché le cose sembrano più tristi se viste dal retrovisore. La vita in fondo ci insegna, è proprio così, una questione di angolazione, intonazione. Guardo solo posti cani, cambio sui telegiornali, con lavori stagionali e un futuro più remoto di paesi tropicali che ti appannano gli occhiali, mentre mezzo mondo muore, l'altro mezzo è già in piscina e fa qua giù. Carino il nuovo istruttore a casa all'argentario, certo non è più quello di 10 anni fa, la luce, il microclima. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà. E quando ce l'hanno tu vedi cafoni in ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze di pizza che fa capodanno, che palle. Il politicamente corretto per me ha rotto soltanto i coglioni. Con questo sistema non parli, è solo così, puoi tenerteli tutti buoni, i pecoroni. E per fare i genitori capire quei concetti. Non servivano dottori, solo amici e due portoni, mezzo litro di scela, quattro pile per sentire i della sol. Depresse soltanto il minore, più pusher che runner a parco sempione, il calcio, la moda, il vino francese, che palle. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà, e quando ce l'hanno tu vedi cafoni, ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze di pizza che fa capodanno, che palle. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parla di amicizia, di fratellanza, in studio qui al Branca siamo al top, pieni pieni di amici e anche fratelli, e sorelle ovviamente, mettiamoci tutte e due i generi. Allora, cambio mic, andiamo con la parte femminile, la meglio parte del programma, Alice. Allora, oggi di cosa parliamo, Alice? Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un bagno schiuma che rende più morbida la pelle. Questo fa bene a me, quindi diciamolo, Ha dentro petali di girasole che regalano al corpo un bagno dolce, tanta freschezza perché è delicato e lascia sulla pelle il profumo di estate, cioè il profumo di estate. Perfetto, senti, dove possiamo comprare questa crema? All'erbolario. All'erbolario, possiamo dire anche il prezzo se te lo ricordi oppure è un regalo? È un regalo. Perfetto, senti, a me la consigli come cremina? Un bagno schiuma te lo concedo. Me lo concedo, grazie per la concessione, sono umilmente colpito. Senti Ali, invece dal punto di vista di che altro volevamo parlare? Soprattutto contiene zucchero di canna, barbabietola da zucchero e fiori di cocco. Si può comprare all'erborario e poi c'è anche un'altra cosa oltre... Aspetta. Sì, sì, qui ascoltate bene i consigli, care pubbliche femminili. Aspetta, ciao a tutti, oggi vi parlerò di un... aspetta un attimo. Aspetta lì, però diciamolo prima, fuori onda, possiamo dirlo, tanto qua tutti ci ascoltano ma nessuno ci guarda. Che mani ho? Diciamo, dillo, che mani ho? C'ho le mani più grandi delle due. Di poco. Diciamolo. Quindi non è che sia un vanto per me, è un vanto per te soprattutto, esatto. Quindi... Senti, allora, mandiamo praticamente volevo dire anche un'altra cosa che oltre alla... Mo dico anche la notizia, adesso la dico. E poi praticamente volevo dire quello del rasoio. Rasoio, aspetta, quindi non guarda a me, che guarda che barba che c'ho, ma guardi come parli del rasoio, proprio io e il rasoio siamo due mondi diversi. Allora, il rasoio praticamente si usa per fare la ceretta. Quindi le ascelle? Quel rasoio, la ceretta se ne fa poca. Ok, quindi, e poi che altre parti, come la utilizziamo sta lametta? Cioè, la lametta la usa spesso chi ha le ascelle delicate. Ok, ora non posso farti vedere qua davanti a tutti le mie ascelle, ma promesso che ne riparleremo. Esatto. E quindi diciamo, poi che altro, che consigli tu dai alle donne nell'utilizzare il rasoio? E la schema da barba. E fare con moderazione. Esatto. L'ABC, esatto, mi suggeriscono dalla regia, l'ABC proprio, che cosa? Della beauty routine. Sì. Allora, andiamo con un pezzo e poi ritorniamo sempre con Alice e i suoi consigli, ma questa volta parliamo di mobilità. Principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme. Siamo in diretta, questo è Jolly Roger. Sorvoliamo sugli argomentazioni del fuori onda. Sì, cara, certo, sì, siamo tornati in diretta e tutto ciò. Esatto. Di che si parlava? Delle lamette. Si parlava del pre-rasatura e qualcuno ha detto: dopo la rasatura, perché dopo la rasatura che si fa? Si mette la schiuma da barba? Dopo. Dove fai una bella doccia? No, dopo ti sciacqui, dopo ti asciughi. Un po' di crema? Un po' di cremina. Oppure l'olietto. L'olio santo. L'olio per il corpo. E che ne sapete voi? L'olio per il corpo, perché? Al rosmarino? L'olio per il corpo serve anche alle persone che hanno la pelle più sensibile. Così la pelle non si arrossa, non si screpola. Serve proprio per evitare queste cose. Avete capito voi che vi rasate con le lamette? No, fa anche venire un pochino fa venire anche un po' di rughe, però l'olio serve per venire questo. Ok. Però a volte, però c'è la crema apposta, c'è una crema. C'è la crema antirughe. C'è la crema antirughe. Esatto, senti. E invece per quanto riguarda la mobilità, quindi il traffico, lavori e compagnia bella, ricordiamo agli amici che è un periodo in cui Roma sta subendo diversi lavori, a breve chiuderà, quest'estate chiuderà anche la metro, perché appunto quest'anno si va a fare il giubileo. L'hanno iniziata con manutenzione, da aprile inizieranno di nuovo i lavori per migliorare le stazioni della metro A. Dalla domenica al giovedì la metro chiuderà alle ore 21, mentre venerdì e sabato alle 1.30 nei mesi estivi. Alcune fermate, come le stazioni di Spagna, Ottaviano e Cipro, chiuderanno per i lavori, e speriamo presto che i lavori finiranno molto brevi. Grazie. E quindi che c'è scritto? Che io scusate che arrivano notizie dal mondo. La nostra giornalista dell'ANSA sta recuperando notizie importantissime che riguardano olio di rosmarino per i capelli. Appunto, ora mo per pulizia da fare legge, guarda. Vedi che t'avevo detto? Allora, io diciamolo in diretta, ho raccontato che uso l'olio di rosmarino per curare la mia calvizia, il mio principio di calvizia. Vabbè, il principio, sono morti 6 anni fa, però si sono ricordati adesso di questa conoscenza. E siccome raccontavo che grazie a Instagram ho scoperto che esiste l'olio di rosmarino che si usa per come impacco e tutto quanto, ora qualcuno mi ha fatto presente dall'ANSA, proprio è arrivata la notizia che è consigliato soprattutto agli uomini. Esatto. E vogliono vedere anche i risultati. Mo fra un paio d'anni, quando non mi ritaglio più i capelli. Va bene, anche un bagno schiuma adatto per le pelli sensibili e idratanti che curano delle piccole cose sulle borse sotto gli occhi. Le borse sotto gli occhi. Che quando tu ti... Così, se ti sovini il viso, quando uno si sovina il viso, quando si lava sotto la doccia, se tu lo fai sotto la doccia col bagno schiuma, se tu lo compri un bagno schiuma, tipo all'erboristica, oppure all'erborario, al Virochè, capito? Questi negozi qua. Allora, c'hanno queste cose che servono a questi borsi agli occhi, che agli uomini gli serve molto spesso, tipo vedi che tu ce li hai? Io non è che ho le borse, io ho proprio le valigie, non le borse. Però ti posso dire una cosa, queste qua non si devono vedere un po' di meno? Sì, non diciamo cosa sta indicando, ma indicava appunto, non, queste non sono borse, sono valigie, lo possiamo dire? Certo che lo possiamo dire, perché è giusto che le curi bene. Che la gente sa delle mie valigie. Però è meglio qualcuno ha detto trolli. Però tipo, se tu hai una crema o qualcosa del genere, la puoi omettere. Perfetto, grazie. Oppure puoi mettere la crema quella per il proprio quella cosa papà quella per quello che serve anche perché quando uno non ci vede tanto bene per quando uno non ci vede tanto bene È il mio caso anche questo. è il tuo caso anche questo che tu metti la crema per farti vedere meglio agli occhi e si Perfetto. leva anche quelle cose lì. Bene, bene, perfetto, Ali. Dove? La vendono, lo sai dove? A Italy. Perfetto. Allora, ma Dove si mangia? Perché dove si magna e ci si va a cura perché tuo padre ha detto. la vendono anche un po' di cremine qui, poche ma ne vendono. Buone. Perfetto, perfetto. Grazie, Alice. Sono consigli preziosi che ovviamente fai guardandomi, quindi cioè, diciamo che di Io. lavoro ce n'è da fare, ma noi proseguiamo la puntata. Niente muore, tutto si trasforma, io lo so. Quanto amore nell'ozono non lo scorderò. Siamo tutti legati da fili, buoni pure cattivi, un giorno rincontrerò. E non mi dire che non vedi più la luce all'alba, che ora quando stai al sole più non ti riscalda, che la felicità è una leggenda, e chi sorride sempre ingenuo e si accontenta. Sono sceso in fondo per vedere cosa c'era, è qui che ho conosciuto gente vera. Un giorno ho aperto il cuore di una cameriera, mi ha servito un distillato di primavera. Ma salta in macchina. So non ci credevi ma cambia. Faccio pensa e ce ne andiamo in Olanda, gli finiamo la ganja, poi andiamo a suonare i bonghi in Uganda. Tutto è molto più semplice di quello che immaginavi. Credimi, siamo tutti diavoli con le ali. Viaggio di nozze in Littorina, con te ho trasformato il mio veleno in medicina. Siamo ai saluti finali, puntata ricca in tutto di chiacchiere. Abbiamo parlato di amicizia e fratellanza, quella che si respira in quel di Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E abbiamo parlato con le nostre consuete rubriche. Vi abbiamo accompagnato a quello che inizia come un lungo weekend, perché appunto poi settimana prossima, Ponti de Mezzo e compagnia bella. C'è qua il mio salutiere ufficiale, Lucone. Dobbo aiuto. Perfetto, come dice lui, non lo dice nessuno. Ciccio, se c'è una felpa spettacolare, quindi ci... Ah, addirittura tu la settimana prossima non ci stai, quindi dove vai la settimana prossima? Vai a Bologna, addirittura, bene, bene. Poi ci racconti allora, quando ritorni la settimana quella dopo, raccontiamo cosa hai fatto a Bologna. Mangio i tortellini e lasagna. Perfetto, e la piadina, pure a Bologna la piadina si deve assaggiare, giusto Ciccio? Allora, a proposito, venerdì prossimo non andremo in diretta, visto comunque le varie giornate, i vari ponti, quindi ci risentiremo dopo i vari festeggiamenti del 25 aprile e 1 maggio. Auguriamo a tutti e tutte un buon weekend e appunto, visto che si parla di amicizia, lasciamo con un pezzo di un amico, soprattutto romano. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso pensiero, io e te il tuo il mio respiro. Sarà tornare ragazzi, crederci ancora un po'. Sboccheremo i muri con un altro no. Amico cerca me e ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare chi era lei? Amico era ieri, le vele le hai spiegate ormai. Ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù, ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di Dio.